Vestito della festa venne a Roma un bel mattin, con le noci in una cesta, con chitarra e mandolin. Chieda a tutti fra i motteggi l'indirizzo di città, dove fanno quelle leggi che il giornale stamperà. Chieda Sorrento, perché pare chi lo sa. È arrivata al Parlamento, ma chi? L'ortolana di Sorrento, Concettina Cafuri, c'è subbuglio in Parlamento. Perché? L'ortolana di Sorrento vuole leggersi da sé. Da tre giorni fa un discorso sul rincaro dei pepero, su Gennar che l'ha lasciata con tre figli da vivero. Signor Presidente, lasciatemi passare. La legge la voglio cambiare. È arrivata al Parlamento, ma chi? L'ortolana di Sorrento, Concettina Cafuri. Come un vortice o un flagello da ogni seggio vuol parlare, e perfino il campanello al Presidente fa caccar. Scaglianoci all'impazzata per destare più attenzione, sotto i banchi rifugiata trema pur l'opposizione. Tienda Sorrento, il Vesuvio in eruzione. Ad avvenì, maghi. Ad avvenì. In seduta straordinaria tutti i membri han deciso già, darle un seggio in manicomio dove ai pazzi ripeterà. Signor Presidente, lasciatemi passare, stavolta la legge la voglio cambiare. Son d'accordo in Parlamento, ma va. L'ortolana di Sorrento onorevole sarà, e tutti ad una voce la salutano così. Torna Sorrento, Concettina Cafuri.